Life in Erasmus canta questa canzone. Proprio ieri è stata presentata una lettera, un invito sottoscritta da oltre 100 personalità europee del mondo dell'istruzione, dell'arte, della letteratura, dell'economia, della filosofia. Una lettera che la Commissione europea ha fatto sua proprio in vista di quello che sta accadendo e di quello che dovrà accadere. I soldi sono sempre meno, l'Erasmus ha rischiato e sta rischiando ancora un taglio, una sorta di ridimensionamento. Invece con questa lettera si vuole sottolineare l'importanza di questo progetto che crediamo sia veramente alla base dell'Europa. Per capire il valore di questa lettera, poi Raffaella ne parliamo anche con te, tu hai fatto l'Erasmus, quindi sei testimone anche tu dell'importanza di questo progetto, credo. Ovviamente. Con noi c'è Emilio Dal Monte, vice direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Emilio, bentornato all'Altra Europa. Ciao Federico. Ciao. L'importanza di questa lettera, l'urgenza di farsi sentire, l'urgenza di alzare la voce, l'urgenza di chiedere che questo progetto, questa leva per la contaminazione, per l'integrazione, per l'incontro tra culture, per la mobilità di teste, di persone, di emozioni, continui. È una lettera che è stata sicuramente ben accetta e secondo me era assolutamente indispensabile. Il problema è un problema grossissimo secondo me, perché ovviamente Erasmus è servito un pochino da spia, è servito da spia di una situazione che in realtà è molto più grave, tant'è vero che Erasmus, si dice, insomma, fondamentalmente ha un buco di 90 milioni di euro nel bilancio attuale, ma in realtà i soldi che mancano nel bilancio dell'Unione Europea sono in realtà 9 miliardi. E non coprono solamente Erasmus, quindi Erasmus in un certo senso, ripeto, è stata la spia, è come quando si accende la spia della benzina, ma in realtà qui si sta parlando di fondi della ricerca, si sta parlando di fondi di coesione, fondi quindi per le regioni dell'Unione Europea che più ne avrebbero bisogno. Mm-hmm. Si parte sempre da lì, pare, no? Si parte dalla cultura, si parte dall'istruzione, quando si deve tagliare è uno dei primi bacini dove si va a togliere questo, perché... Guarda, per una volta non sono d'accordo, nel senso che Erasmus, ripeto, che è stato un po' la spia di questo malessere, ma anche di questa miopia che c'è in generale nei confronti delle spese dell'Unione Europea, cioè è la vittima, se vogliamo, è una delle vittime di questo fenomeno, perché il fenomeno in realtà è un fenomeno, mi spiace, magari sembra noioso, ma è un fenomeno legato semplicemente al funzionamento del bilancio dell'Unione Europea. Perché ogni 7 anni si dice, benissimo, questo è il quadro finanziario, avete un massimale da spendere per i prossimi 7 anni, benissimo. Poi ogni anno si decide il bilancio e lì comincia il tiramolla. E cosa succede? Che quando la Commissione quest'anno, ad esempio, ha proposto 132 miliardi di bilancio, alla fine ne sono stati approvati 129, allora già 3 miliardi in meno. Poi i soldi dell'anno prima, stessa cosa, c'erano 5 miliardi in meno, alla fine i nodi arrivano al pettine. I programmi che sono fatti su base pluriennale, oltretutto, arrivano a regime verso la fine di questo settennato, che finisce alla fine del 2013. Il risultato, ci sarebbe bisogno di avere più soldi freschi proprio per onorare degli impegni, che non è che quindi si sta chiedendo un aumento del bilancio, semplicemente si sta chiedendo di onorare gli impegni che sono stati presi e che sono comunque inseriti in un quadro di bilancio che è quello deciso nel 2007. Raffaella, stavi dicendo, ti ho visto che mentre Dal Monte parlava con la testa facevi un po' sì e un po' no. No, non è vero. Facevo sì, assolutamente, anzi Emilio Dal Monte l'ha spiegato veramente in modo perfetto. L'unica cosa che volevo precisare era che quando parliamo della miopia bisogna precisare la miopia di chi. Cioè non c'è l'Europa di mezzo, ci sono un gruppo di stati membri dell'Europa, diciamo del nord dell'Europa, capitanati dalla Gran Bretagna, accompagnata da Svezia, Olanda e altri paesi diciamo... Sì, del Nord Europa, che stanno bloccando il bilancio dell'Unione Europea, cioè non è l'Europa, e questo bisogna spiegarlo, precisarlo, e i cittadini devono sapere che è su questi governi che bisogna fare pressione, perché poi diamo la colpa a Bruxelles per colpe che non sono sicuramente della Commissione né del Parlamento. Emilio, al di là dei soldi che sono comunque alla base di questa discussione, ovviamente, credo che sia stato una bellissima risposta riuscire a mettere insieme tante firme di tutta Europa. Forse è anche la prima volta che si fa un documento di questo tipo con la cultura al centro. Sono d'accordo. Anzitutto sono d'accordissimo con quello che diceva la collega del Parlamento. Sul fatto che io non volevo dirlo, si dice il peccato ma non il peccatore di solito. Noi in Parlamento siamo più il Parlamento come organo politico può parlare senza peli sulla lingua, no? Ecco, e ha perfettamente ragione, ecco. Diciamo che sono i soliti ignoti, chiamiamoli così. Ma a parte questo, sulla lettera sono perfettamente d'accordo anche con te, nel senso che è forse la prima volta che c'è questo movimento, come si suol dire, bottom up, cioè si parte effettivamente dalla società civile. È bello vedere come si parli qui di firmatari che vengono un pochino da tutti i settori, non solo artistico, non solo, ma anche sportivo, ma anche insomma dell'economia, insomma un po' da tutte le parti. È molto bello, è molto utile, perché Erasmo è veramente forse il tratto distintivo più conosciuto dell'effetto anche che l'integrazione europea può avere. Ormai c'è poco da dire, sono 25 anni che questo programma esiste, ed è un programma che ha conosciuto un successo sempre crescente. Se guardate i diagrammi, chiamiamoli così, si vede che la curva è in ascesa continua, sia una curva per quanto riguarda i soldi che sono stati investiti in queste azioni, sia per quanto riguarda il numero dei partecipanti, siano essi studenti, siano essi tirocinanti in impresa, siano essi personale delle scuole, perché non dimentichiamoci anche questo aspetto. Quindi qui stiamo parlando, l'anno prossimo, se tutto va bene, di arrivare a un totale di 3 milioni di persone. E se ricordo bene, in genealogia una generazione si calcola che duri 25 anni, quindi ormai stiamo parlando della seconda generazione di Erasmus. E poi insomma la generazione Erasmus è anche la generazione nativa con l'Europa, quindi c'è questa forte coincidenza, integrazione e somiglianza, assonanza, e quando diciamo che è sicuramente uno dei germogli dell'Europa, la generazione Erasmus, credo sia assolutamente una verità. Grazie davvero a Emilio Dal Monte, vice direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Buon lavoro Emilio, a te e a tutto il tuo staff. Ciao, grazie. Federico, ciao.